più, non ne posso più dell'esoterismo che propinano i pagani. Non ne posso più, non ne posso più, la piccola cagata che si fa per il moroso. Non ne posso più, non ne posso più dell'esistenzialismo che brucia il cerebrale. Non ne posso più, non ne posso più del verbo che si coniuga nel passivo di soffrire. Non c'è ragione, ragione se dei pezzi quanti pezzi in giro tondo. Plumbeo stupore, se la vita mi disturba, che miracolo sarebbe un gesto dignitoso. Yeah.